un'impennata di quasi il 60%. Crescono a dismisura le società intestate a prestanome al solo scopo di non pagare le tasse. Nei primi 9 mesi del 2011 il numero di NewCo costituite sotto forma di SRL e SPA aventi nella compagine teste di legno è cresciuto del 58,7%. In assoluto sono state costituite ben 3.085 società di capitali in sostituzione di quelle precedenti, aventi come amministratori e soci giovani, per lo più donne, privi di qualunque competenza e soprattutto nulla tenenti. La denuncia arriva dall'Associazione Contribuenti Italiani, tutto ciò per evadere il fisco e sfuggire al principio della ristretta base azionaria introdotto dalla Corte di Cassazione, che consente di recuperare le tasse evase direttamente in capo ai soci di capitale. Come teste di legno vengono utilizzati soprattutto i giovani, per lo più donne, che non trovano sbocco nel mondo del lavoro e che, ignari delle conseguenze, accettano di diventare soci amministratori di facciata di gente senza scrupoli che cerca di ripulirsi da fallimenti, reati economici o più semplicemente per continuare a evadere il fisco. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.